Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono e lo ricordo, ospiti Rain. Ora ascolteremo i brani del loro disco Dad is Dead, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato, il titolo Bang Bass. La vostra esperienza in sala di registrazione e quali le idee musicali a supporto di questo nuovo disco? Guarda, Bang Bass è il singolo trascinante del disco, abbiamo fatto anche il video e nasce su YouTube. Sì, lo trovate su YouTube, il nostro canale YouTube è Rain Crew. No, Rain Crash Tube. Esatto. Non sai neanche il tuo canale, no, di YouTube. Comunque Rain Crash Tube è ufficiale. Diciamo che questo nuovo disco ha cambiato un po' la marcia di quello che era i due dischi che lo precedevano, Head Shaker e Big Ditch. Head Shaker e Big Ditch erano comunque nati con una formazione leggermente diversa, con un altro cantante, con un altro chitarrista, che comunque andavano più dietro un filone heavy metal classico, se vogliamo, più di stampo, più anni 80, ma più che altro un po' più epico per certe cose, un po' più power, bravo, power. Un po' più power. Adesso magari siamo un po' più baricentricamente spostati con i nuovi entrati, il cantante, il biondo e Marco qui presente, il maestro, al master, con questo nuovo chitarrista che ci ha dato veramente un qualcosa in più negli assoli, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere, anche se sì, certo, non sarebbe bello dirglielo in faccia, ma è vero. Comunque no, con questo baricentro più spostato verso l'hard rock abbiamo tirato fuori una fusione di hard and heavy che secondo me era completamente quel passaggio agli anni 2000 che volevamo fare. Qual è invece la prossima canzone? La prossima la vuoi dire tu, Marco? La prossima è Love in the Back. Rieccoci in studio con i Rain. Il disco ha già avuto, immagino, molte recensioni da riviste e webzine specializzati. Quali sono state le più lusinghiere? Ma sì, il disco alla fine è uscito da un annetto più o meno, quindi è stato recensito pesantemente in lungo e in largo in Italia, ma soprattutto in Europa. E ti dirò, le cose più divertenti sono venute dall'estero, perché quando tu, italiano, scrivi dei testi in inglese, sai, tu dici, vabbè, li scrivo bene, li faccio correggere, magari li faccio leggere a madrelingua, me li faccio perfezionare. Però come noi, secondo me, non capiamo mai tanto bene i testi che vengono fatti dai gruppi stranieri, perché secondo me tu, sì, noi li traduciamo, ma in realtà non è che li comprendiamo molto bene. Neanche loro comprendono tanto bene i nostri. Ma ne interpretano lo spirito. Ma ne interpretano lo spirito, infatti, interpretano lo spirito, e tutti, insomma, si soffermavano magari molto sui testi. Musicalmente abbiamo sempre avuto veramente ottimi consensi, il cantante nuovo è piaciuto molto, il nuovo modo un po' più hard and heavy che dicevamo prima con questi assoli è piaciuto un casino, però sui testi magari ti dico sono tutti rimasti un po' colpiti, perché non capivano se erano ironici, se erano, non abbiamo capito neanche noi probabilmente. Vabbè. Però soprattutto chi è questo signor due parole? Signor due parole, adesso stasera non l'ascoltiamo Mr. Two Words, ma nella prossima puntata magari la metteremo su, però non lo posso dire chi è. Il prossimo brano per i nostri ascoltatori. Il prossimo disco, la title track del disco, si chiama Dead is Dead. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Rain. Voi restate sempre su Radio RCS.